annunci di apertura dei cantieri per il terzo valico ferroviario dei Giovi. Un'infrastruttura indispensabile, hanno commentato Confindustria e le istituzioni genovesi. State tutti aspettando le ruspe sui cantieri, le vedrete mano a mano, le vedrete. Ha un costo previsto di 6 miliardi di euro, di cui 2 sono stanziati, altri 4 sono da trovare. Il materiale di scavo ricco di amianto. 44 chilometri di gallerie. Sappiamo bene che richiediamo sacrifici. La vita è un treno che sfreccia veloce. Talvolta la coscienza resta indietro e non senti più la sua voce. Il tempo per pensare scompare, tu non ti accorgi che nel tuo cervello c'è un lavaggio in corso tutti i giorni. Lo Stato va come un Eurostar col biglietto caro, ore di ritardo e non sai se ripartirà. Ma taglia ricerca, pensioni, scuola e sanità. Spende troppo in grandi opere di scarsa utilità. Nessuno sa come si sta, come stiamo vivendo nelle valli minacciate dall'amianto e dal cemento. Sento chi non conosce l'argomento dire assurdità, altri scoraggiati dire tanto si farà. Ma la verità è che non ci servono supereroi, basta alzare lo sguardo e dirgli forte che noi non ci stiamo, questa terra è nostra e noi per lei lottiamo per difenderla da un eco mostro con il volto umano. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra, le bugie che raccontano non starle più a sentire. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra, non possiamo più fidarci di chi ci governa. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra, informati davvero e chiediti se ha senso. Questa terra è nostra e c'è chi la difende, un futuro migliore te lo conquista nel presente. Tracciano linee su delle mappe, trafiggono montagne nel cuore, ma intanto chi se ne sbatte? L'importante è ottenere il costo più alto possibile. Dire a chi ci vive una palla un po' verosimile. Si parte coi lavori, è troppo che si aspetta per le analisi sul territorio, invece non c'è fretta. Basta agire finché ci sono soldi, prima che i cittadini capiscano e non restino più sordi. Non è l'idea dell'opera, piuttosto il come e il dove. Alle alternative non è stata data voce. Così mentre l'Italia rischia quasi affonda, ci salvano con TAV, terzo valico e Gronda. Quindi chiediti perché i TG non te lo spiegano, chiediti perché i politici lo negano, chiediti perché fanno vedere la violenza, chiedersi perché può far la vera differenza. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra, le bugie che raccontano non starle più a sentire. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra, non possiamo più fidarci di chi ci governa. Accendi la tua mente, questa è la nostra terra, informati davvero e chiediti se ha senso. Questa terra è nostra, c'è chi la difende, un futuro migliore te lo conquisti nel presente. Non è importante come la penso io o come la pensi tu. L'importante è che parliamo, che ci informiamo, ci chiediamo perché certe opere vogliono essere fatte. Vorrei credere che siano fondamentali, ma sento che non posso. Ci sono fatti troppo evidenti. Però mi chiedo, quanti soldi saranno spesi per metterci in sicurezza dalle alluvioni? E quanti per queste opere? Pensaci.